Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara. Oggi è mercoledì, come sempre al mercoledì abbiamo il live. Io sono molto contento. Da quanto tempo che non vieni qua? Un annetto, Germano? 18 mesi. Ecco, 18 mesi. Stasera abbiamo Germano Bonaveri con un nuovo disco. Un disco che ha fatto dopo un anno circa da Città Invisibili. Un disco molto bello dedicato a Calvino. E questo nuovo titolo, Germano, una nuova produzione. Tu hai detto che questo gli altri erano, è un vero e proprio romanzo. Gli altri erano racconti. Sì, questo è un concept nella misura in cui si cerca di dare una forma mentis all'intero lavoro, anche fra l'altro una strada un po' abbandonata, perché al giorno d'oggi i contorni del concept sono sfumati. Sì, esattamente. 11 canzoni d'amore, dici che è un concept e chi ti può contraddire? E in Italia ne fanno quasi sconosciuto il concept, è tanto tempo che non c'è un concept. C'è stato il periodo del progresso, gli anni 70, esattamente. Abbiamo visto il banco, la PFM, e vabbè, oggettivamente De André ha fatto, sì, ha fatto parecchi concept. Cioè parecchi dischi concettuali. Io ricordo, ho sempre visto che l'ho amato e lo amerò sempre, La Buona Novella. Bravissimo. La Buona Novella e Storia di un Impiegato sono probabilmente i due concept più importanti del nostro panorama. E visto che anche te continui a fare qualcosa di De André. Sì, beh, sai, io credo che le nostre origini vadano sempre ricordate. Certo, anche perché certo. È un'epoca che tende a cancellare la memoria, proprio perché fornisce così tanta informazione in tempo reale che tutto quello che è successo anche solo un'ora fa diventa vecchio. Giusto. Conservare la memoria, quindi anche nella memoria io cercherei di mantenere anche quegli artisti che hanno dato secondo me una forma di dignità molto alta l'idea di canzone, di cantastoria ancora prima di cantautore. Allora, questo titolo nuovo, L'ora dell'ombra rossa, pubblicato a novembre, quindi da pochissimo tempo. Sì, l'11 di novembre. L'ora dell'ombra rossa perché rosso è un colore che ha tanti significati. Rosso è il colore di un compimento, di un percorso. Perfino nell'antica tradizione alchemica, il rosso era il colore della pietra filosofale, sì, quando esatto. Raggiungeva. Rosso perché rosso è la carne, rosso perché rosso è il sangue, quindi rosso è la dimensione dell'umano. Anche il pathos, si può dire. Sì, l'emozione forte, perfino la spinta erotica. Sono tutti colori di grande energia. Il colore rosso è un po' legato a quest'idea. E credo che sia arrivata un'ora per quello che è lo sviluppo geopolitico e sociale dell'Italia, ma dell'Europa, del mondo intero, in cui ogni singolo individuo deve riprendere, è veramente chiamato a prendere coscienza di sé. Perché in un mondo dove ogni giorno 30.000 bambini non arrivano il giorno dopo, occorre veramente farsi una domanda seria. Cioè se è questo che vogliamo e se ci è sufficiente di responsabilizzarci e incolpare qualcun altro o i massimi sistemi di questa aberrazione che l'uomo sta generando su un pianeta che secondo me comincia ad avere veramente seri problemi a continuare ad accogliere. E questa ispirazione all'arcani maggiore dei tarocchi di Marsiglia sono un'ispirazione che poi però porta a determinati altri risvolti. La costruzione dell'uomo, andare dentro l'uomo, questo è importante. Ma sai, il tarocco scusate, il tarocco è un pretesto, nel senso che al tarocco si è sempre sacrificata l'idea di una tradizione molto antica che si perde nella notte dei tempi. In realtà io credo che tutte le forme artistiche, che poi c'è chi le veste addirittura di strumento di pronosticazione del futuro, sì, esatto. di divinazione. Guarda, io credo molto all'idea che tutto accada ora, quindi la divinazione fa parte di quel mondo di superstizione cui l'essere umano, quando è abbandonato, quando nessuno si piglia più cura della sua anima, rischia di cadere. Per quello che ne parlavamo prima, io sono un mangiapreti per quello che riguarda, cioè concettualmente io sono, appartengo a una sinistra che non esiste più, ma siccome credo che il buon senso consista nel valutare quello che ti capita intorno, io credo che in un'epoca come questa mai come oggi c'è bisogno di figure e di movimenti religiosi forti, tradizionali, perché la maggior parte delle persone ha bisogno di qualcuno che si prenda cura della sua anima. Una guida praticamente. E quando vediamo un florilegio di santoni, maghi, profeti, certo. Dobbiamo chiederci se non bisogna ancora di più intensificare lo sforzo di prendersi cura di quelle anime. Poi esistono anche quelli come me che hanno una presunzione forse cieca per cui ritengono di prendersi cura della propria, ma siamo tutte persone. Tutti hanno bisogno comunque di qualcuno a cui affidare una speranza quando l'oggettività che è intorno non te ne lascia. Certo, questa è la costruzione concettuale dell'album. Dal punto di vista musicale hai fatto un lavoro un po' diverso dai precedenti, ci hai messo un po' di novità, hai allargato il raggio d'azione, possiamo dire così. Hai ragione, considera che due dischi fa io uscivo con Beppe Quirici come, esatto, arrangiatore, che era un grande, mio grande maestro, e quindi quando ho fatto Città Invisibili, quindi l'ultimo disco, ho valutato bene un aspetto di questa produzione che facevo. Uscivo da un lavoro fatto con un grande maestro. Esattamente. Io credo che un bravo allievo, più che fare una lezione di stile, cerca di mettere a frutto quello che ha imparato e proporlo a sua volta. Anche perché Beppe era ammalato e non potevo fare più il disco con lui. Certo. E quindi ho fatto un disco molto, se mi passi il termine, tradizionale. Cioè quello che tutto sommato uno può aspettarsi da un cantautore. Una certa cura nei testi, una certa educazione musicale. Superato, diciamo, quel test, anche perché devo dire che è un disco che mi ha aiutato a farmi riconoscere come cantautore. Ha fatto il botto, possiamo dire così. Sì, anche se nel mondo mio, sai, nel mondo della musica d'autore, ha movimentato, ha fatto qualcosa, un movimento positivo. Nel mondo della musica d'autore il botto è un po' difficile, però qualcosa è capitato. In un mondo di superlativi, io per qualche mese abbiamo fatto l'errore, io e Patrizia, la mia compagna, di abbonarci a Sky. Nel senso, errore perché... Perché... Qualsiasi documentario, anche un documentario di cucina dove cucinano una frittata, si nutre di superlativi, per cui il cuoco dice il più bell'uovo che ho visto nella mia vita. In un mondo così, la vita del cantautore è fatta di piccoli momenti di notorietà, se quello sono solo canzonette, no? Non è vero che sono solo canzonette. Ma guarda, aveva ragione Cucina, a canzoni non si fanno rivoluzioni, però a canzoni, e non solo, a canzoni, diciamo, ogni qualvolta ognuno di noi fa un gesto con la presenza conscia di farlo, perfino scegliere se pagare o meno un biglietto di un autobus, se è fatto in piena coscienza è un gesto, non si fanno rivoluzioni, però si manifesta in un qualche modo una propria idea, una propria presa di posizione. Ed è la proposta che c'è dietro al concept del disco. Cominciamo perché è veramente necessario, è l'ultima chance che abbiamo, secondo me, per fare cadere un sistema che deve cadere, che è inesorabilmente destinato a cadere. Ma se non lo facciamo cadere noi, nella sua frana si porterà dietro un sacco di vite, se lo facciamo cadere con... E per farlo cadere abbiamo due armi. Il linguaggio. Certo. Perché altrimenti il rischio è che se non abbiamo abbastanza parole per spiegare la nostra rabbia, ci picchiamo in strada. Invece bisogna... La rabbia deve passare attraverso il linguaggio, perché solo dopo può continuare a essere rabbia, anche fisica, ma rabbia sana, rabbia maturata. Quindi riappropriarsi di un linguaggio. E nel disco avrei visto che ci sono parole che... un produttore sano del giorno d'oggi ti direbbe non usarle. Io dico che invece bisogna innalzare sempre di più la proposta, perché io ho una grande stima delle persone. Il produttore medio musicale considera il pubblico fuori un branco di pecore che non capisce. Sì, tu hai fatto un lungo discorso sul produttore, lo facciamo dopo, perché è molto interessante. Iniziamo ad aprire la finestra e a presentare il primo pezzo, che ha un arrangiamento molto bello. Tu hai parlato tra me, mentre il microfono era spinto, leggermente pop, nel senso buono del termine. Sì, sì, uno sguardo. Beh, il disco, essendo un percorso di evoluzione, è una proposta di... qualcuno mi ha chiesto se era un disco di rivoluzione. Rivoluzione è una parola che ha tanti aspetti. E, diciamo che è una proposta di risorgimento. Ah, ok. È una proposta di autonomia sociale. In questo momento storico noi non abbiamo bisogno di nessuno, se siamo consapevoli di noi stessi. Ci stanno imponendo il bisogno sempre di altro. Ed è trasversale, non riguarda la destra, la sinistra. E c'è bisogno di questo. E quindi il disco ha bisogno di partire dalla considerazione dello stato sociale odierno per fare una proposta, per sollecitare delle idee e fare una proposta di indicare una strada. Poi ognuno di noi nel suo intimo va a decidere quale strada intraprendere. Le Batelier è il mago del tarocco. Esattamente. Ok, lo sentiamo adesso. E lo sentiamo. Gioco con le ombre, spiccioli di lievi vite galleggia in questo universo bidimensionale, come può esserlo il muro di casa mia. Gioco con le ombre che docilmente obbediscono nella loro esistenza verticale, appese al brillare di una sola. la bugia, gioco con le ombre, dominando la materia dei sogni, sento pulsare il mio istinto animale, che sensazione calda e viscerale, giocare con le ombre, posso armeggiare con l'interruttore, e immaginandomi padrone del sole, ricominciare dall'ultimo errore. Gioco con le ombre, muovendo in modo sceno le dita sottili, faccio un seno con il palmo della mano, l'accarezzo e mi accarezzo piano, piano, piano. Gioco con le ombre, gioco un gioco divino, posso essere bene, trasformarmi in Caino, ho bisogno di potere, ho bisogno d'altre mani, io titano in mezzo ai nani, ho la vittima di un destino che sento accadere. Gioco con le ombre, avessi altre mani ti disegnerei, ma non so proiettare il desiderio sulla parete del muro di casa mia. Gioco con le ombre, la poca luce rischiara il mio silenzio, veglia il rancore nell'opaca stanza dove si sproglia il gomitolo del vivere. Gioco con le ombre, muovendo in modo sceno le dita sottili, faccio un seno con il palmo della mano, l'accarezzo e mi accarezzo piano, piano, piano. Gioco con le ombre, gioco un gioco divino, posso fingermi Abele, trasformarmi in Caino, ho bisogno d'altre mani, ho l'urgenza di sapere, io titano in mezzo ai nani, ho la vittima di un destino che sento accadere. Gioco con le ombre, gioco un gioco divino, voglio essere bene, assassinare Caino, ho bisogno di potere, ho bisogno d'altre mani, io titano in mezzo ai nani, ho la vittima di un destino che sento accadere. SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Salutiamo Michele Tosoni che ci guiderà fino alla mezzanotte, quindi questa serata del mercoledì. Rock Wave continua sempre, domani è festa, saltiamo ma riprendiamo venerdì. Ma ritorniamo a Germano e ritorniamo a questo arrangiamento molto bello, molto vivace, ma allo stesso tempo fatto in una certa maniera di questo primo pezzo. Germano. Certo. Beh, sai, qui intanto le percussioni che ha suonato, chi ha suonato i percussioni? Fabrizio Luca, un valente percussionista. Sono stati suonati due bidoni da petrolio, della bello, Tanoil, bello. Da 250 litri, quindi immagina dei bidoni alti un metro e 20, belli grandi, con dei manici di zappa, perché... Perché con i manici di zappa? Perché, allora, intanto considera che in tutto il disco ci sono dei mondi registrati a livello di ambiente naturale, perché ci sono dei suoni, sai, anche, anche per il meditatore, per il filosofo, diciamo, è lo spazio che c'è fra le cose che ha un suo valore. Quindi anche quel rumore di fondo che ha il mondo, quel silenzio che tu non percepisci se non vuoi ascoltare, ha un suo peso. Il silenzio fa un rumore devastante. Certo, certo. Quindi, e non volevo silenzio digitale nei momenti di silenzio, volevo che ci fosse un mondo. Quindi l'idea in un primo pezzo di suonare una cosa così moderna, così anche devastante, perché in nome del petrolio stiamo facendo dei genocidi. Sì, esattamente. Quindi fare diventare quel contenitore uno strumento altro e legarlo a un'immagine che ho fin dall'infanzia della scena in cui in 2001 di sera nello spazio c'è la scimmia che lancia quest'osso verso il cielo e diventa un'astronave. Ecco, il gesto che fa la scimmia prima, dove percuote in un gesto veramente animale, di quell'istinto dell'animale uomo, prima che con l'impero dell'intelletto andassimo a distruggere quell'istinto, volevo ricreare quel gesto, quindi siccome il percussionista era molto bravo, gli ho detto guarda, mm-hmm, ti vai a vedere su YouTube la scena di quella scimmia, la figura ritmica scegliela tu, ma voglio avere quel suono. È un disco fatto di suggestioni, perché spesso è il non detto che comunica, quindi uh-huh, anche il non palese, il non, quello che non è al centro dell'occhio o dell'orecchio deve dare delle sollecitazioni, in questo caso il suono. Ma come l'hai costruito il pezzo, per chitarra all'inizio o in qualche altro sistema, in qualche altra maniera, non so, l'hai fischiato, così faccio un'ipotesi? È il primo disco che ho in testa esattamente dall'inizio alla fine, mentre gli altri dischi erano un work in progress, cioè iniziavi, scrivevi la canzone. Esattamente. Qui sapevo già, considera che questo testo ha 8 anni. Cioè, è già avevi già pronto queste cose, le avevi lasciate nel cassetto, non era il momento? Poi, erano certo, purtroppo solo nella mia testa. Ah, okay, okay. Alcuni pezzi, il primo pezzo che ho scritto solo come testo avevo 20 anni, quindi parlo di 23 anni fa, che è La Rue de Fortune. E sei giovane, sveleremo. Sei giovane in ogni caso, sei sempre giovane. Rispetto a me sei sempre giovane. Ma non sveleremo tutto il disco, perché qualcuno dovrà poi anche comprarlo, quindi sì, faremo sentire qualche certamente, non sveleremo. Anche la confezione è molto bella, ma svegliamo poi la confezione più tardi, abbiamo tempo fino a mezzanotte. Arriva la Patrizia, sì, è giusto. Arriva Patrizia che fa colazione. Che fa colazione, mi pare giusto. A birretta da lì, live, non si vede, ma bene lo stesso. Vai, vai, Gennaro. E quindi, ecco, l'arrangiamento deve rispecchiare quello che è il mondo. Tant'è che, come facevi notare tu quando eravamo fuori linea a chiacchierare, è un disco che non ha un genere, al punto che Biancani, con cui abbiamo fatto questo progetto, il fonico storico, un maestro del mondo della musica italiana, ha mixato tutti, si può dire, l'abbiamo fatto assieme, è un progetto che portiamo assieme da 2 dischi, la prima cosa che ha detto, sei consapevole che non è più un disco da cantautore, perché non è più appartenente a quel mondo. Sai, io credo che noi ogni giorno, dice anche la scienza, che perdiamo milioni di cellule, ne generiamo di nuove, quindi ogni giorno siamo in evoluzione. Io dico, viva Dio, l'importante è assomigliarsi mentre si fa una cosa, essere se stessi. Poi credo anche che l'imperfezione sia un simbolo, sia una manifestazione della divinità. Certo. Io non vorrei mai una divinità perfetta. Perfino i templari facevano il Notre Dame de Paris con delle asimmetrie, perché la simmetria perfetta era statica, era morta. E poi il discorso del cantautore, ma perché cantautore? Sì, il cantautore è un... fino all'epoca di Bindi, quando l'ha inventato lui, poi cantautore vuol dire tutto e niente. Cioè, no, ahimè, siamo arrivati anche a un punto dove sono cantautori tutti. Ah, ecco, sì, appunto. Io ho visto ad alcuni premi musicali noti cantanti pop scrivere un pezzo per partecipare a quel concorso. Sono diventato cantautore. Allora è un po' come colpevoli tutti, colpevoli nessuno, insomma. Quindi un cantautore a 360 gradi, possiamo dire. Io così credo che ognuno di noi, io ho scelto un mestiere abbandonandone altro, ognuno fa delle scelte nella vita. Ci si possa definire tutti noi artisti nel momento in cui facciamo una cosa rispettando noi stessi, il prossimo, e soprattutto essendo presenti a quello che si fa, perché è il momento, il grande mistico, il santo è colui che a un certo punto vive l'assoluta evidenza della sua presenza in quel momento. E quindi anche l'essere presenti oggettivamente a un'azione che svolgi fa di te un artista, perché l'arte è quel terreno del sacro dove tutto è indifferenziato, dove tutto può essere, dove un segno di matita può essere quello che ti fa cambiare anche le tue scelte di vita. In quel momento lì io lo faccio, cerco di farlo, di esplorare quel mondo lì componendo una canzone, ma in quel momento lì sono libero dai canoni. Okay. Tra l'altro ho maturato questo anche facendo Città Invisibili là, c'era un progetto, cioè cerchiamo comunque di stare in un parametro, perché il rischio era anche che la mia identità fosse falsata nel disco precedente dall'impatto di Quirici. In questo disco ho cercato soprattutto di dare all'ascoltatore, a quei pochi che hanno voglia di seguirmi, l'esatto quadro di quello che è il mio pensiero, di quello che è in quel momento. Ma Germano, i maestri, cioè, non inquinano mai la realtà, quindi non poteva inquinare la tua realtà, secondo se me. Sono veri maestri, no, infatti quindi c'era un grande maestro, assolutamente il più grande che io abbia conosciuto. Benissimo, allora un'altra cosa volevo sapere: come fai a portarlo dal vivo? I tamburi vengono, questi bidoni vengono proprio portati dal vivo sul palcoscenico. Avremo una lunga tournée impegnativa dal punto di vista dei camion, perché sarà un massacro, ma stiamo pensando a 2 tipi di spettacolo. Una band completa, quindi potenzialmente 8 musicisti sul palco, ci sono arpe, ci sono violini, termini, strumenti anche un po' atipici, ma anche una proposta che stiamo costruendo adesso, perché sai, è finito il disco, inizia a lavorare sul live. Il disco è finito da un mese, cioè è uscito da un mese, quindi fra l'altro adesso ci sono le conferenze, fra l'altro mi piacerebbe fare una presentazione anche a Padova, che si nutre poi in realtà di uno spazio dove proiettare alcuni video e raccontare un progetto. E come vorresti fare col proprietario alcuni video? Di cosa? I video di cosa? Due videoclip che abbiamo prodotto, stiamo producendo ne altri due, e poi in realtà è proprio una scelta strategica, artistico-strategica, quella di non voglio portare avanti l'idea di faccio un disco, lo vado a suonare, perché spesso il disco è semplicemente un pretesto per fare un live. Siccome, ma è live essenziale. Siccome però. Questo però nasce prima come libro. Ah, ho capito. Credo che per l'impegno, per la fatica e l'onestà intellettuale con cui è stato fatto, ho la voglia di provare prima ad avere un confronto con chi vuole partecipare, chiacchierare di un disco, spiegare il perché ci sono delle scelte, il perché perfino un colore è stato deciso in quel modo, per rendere l'ascoltatore partecipe del disco, perché il primo reato a cui dobbiamo opporci ogni giorno della nostra vita è la sottrazione che si cerca di fare alle nostre vite della qualifica di Homo Faber. Perfino l'operaio in fabbrica, sono un metalmeccanico, vede tutti i giorni rapita questa sua identità nel gesto ripetitivo senza un fine. Ci stanno portando a fare azioni senza sapere dove andiamo a finire. E questo è il reato più grave che si può fare verso una popolazione. Noi dobbiamo ritrovare degli spazi in cui diventare artefici di quello che costruiamo. Quindi anche ascoltare un disco è un tentativo di liberarlo da quella passività per cui accendi, ascolti, intanto stiri, spingi un pulsante, lavori un computer, stacchi, ti lavi, vai a dormire, buongiorno, ti alzi domani mattina. Troviamoci, parliamo insieme, critichiamo il lavoro di un altro, confrontiamoci, ognuno si faccia la sua... Forse ho idea. Crei la sua piccola idea, essere Homo Faber. Però questa è una cosa che si faceva una volta, sì. Si faceva una volta, si riuniva per sentire, non so, un disco. Io ricordo, io sono leggermente più vecchio di te, ma mi ricordo, tu ti ricordi sicuramente, quando si comprava, per esempio, il disco di Pink Floyd, era Dark Side of the Moon, comprava il vinile, si metteva là sul giradischi e si ascoltava e non si parlava, o si parlava poco, si ascoltava, perché si doveva capire le diverse favolose incostrazioni che Waters e soci avevano dato al disco. Esatto. Beh, erano ancora i tempi in cui si riusciva a parlare di arte. Oggi tutto perché quello... era un'arte, fare un disco era un'arte. Adesso è intrattenimento. Un'arte. È intrattenimento, ma quando tu fai un disco, caso tuo, è faticoso, ci hai messo un sacco di tempo, non hai buttato così, non hai giocato con il computer e basta, no, non serve. Ma è quello spazio lì che dobbiamo riprenderci. Appunto. Cambierebbero anche molti, molti atteggiamenti. Adesso mi dicono di farci un altro pezzo, mi hanno detto in regia. Ci sta sgridando Michele. Andiamo al pezzo numero 2, che è molto bello, ma ne parliamo poi. Sentiamo dai, adesso, ok? Le pandu. Ok. Bon, dungli, aini davo, perché gelea mi nubanga jamana kayano. Donc, buona dama dungli nyongonche. Sani kana feye mwola. I ma fɛn min ye mɔgɔ la e kan'o fɔ, i ye fɛn min ye k'o de fɔ kuwa, o de cɛ kaɲi nɔ. I ma fɛn min ye kan'o fɔ, an ye nin dɔnkili nin morso in da ka sababuya de k'o ye. Ala yɛrɛ bɛɛ la ka n ka gɛlɛyaw nɔgɔya. Adesso che ho perso mezz'ora a cercare un bicchiere, dovrei procurarmi, presumo, qualcosa da bere. Non c'è nulla di più consolante di un aperitivo per sedersi in un bar e sentire così di esser vivo. Questo rito sociale che compio nel mio quotidiano è la prova che sono integrato e che ci assomigliamo. Che non spetti a noi fare un passo in avanti, perché in fondo la cosa che conta per me è farla franca, e non è per paura, è soltanto il coraggio che manca. Tanto il conto alla fine lo pagano sempre gli stessi, quindi è meglio restare nel branco. Perché io, per natura, sto in bilico, trovo molto conveniente star simpatico a tutta la gente. Resto appeso e non litigo, condivido ogni opinione per istinto di conservazione. Non vorrei vi faceste di me un concetto sbagliato, ho aderito persino a un progetto di volontariato che prevede di dare assistenza ad un bimbo africano. Un SMS lanciato da un telefonino. Trovo molto attraenti progetti di aiuto a distanza per tenere pulita e leggera la nostra coscienza. È che io vivo appeso da un secolo al mio stato naturale e comunque non sto così male. Tuttavia resto immobile, butto giù l'aperitivo. Se mi brucia lo stomaco allora vuol dire che son vivo. Ho un conato di fonte, ma non è quel che ho bevuto, è che a forza di starmene appeso sono stato impiccato. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora c'è l'introduzione brevissima di questo ragazzo del Mali. Che come hai conosciuto questo ragazzo del Mali? Considera che questo disco è stato registrato dal punto di vista proprio, a parte le batterie che le abbiamo registrate ex cantine con lo studio di Imola, l'abbiamo registrato all'interno del Maranatà, che è una comunità cristiana che accoglie ragazzi, a 50, un paesino in provincia di Bologna, che accoglie ragazzi emigrati dai paesi dell'Africa. A parte che ho scoperto un mondo, sono 6-7 famiglie che si sostengono a vicenda, vivono assieme e accolgono questi giovani. E lui era uno di quelli arrivato prima a Lampedusa, spostato lì. Noi registrando lì ho conosciuto sto giovane, che parlava francese, perché i suoi amici invece parlavano solo questi dialetti loro, Mali, che non capivo assolutamente. Chiaramente. Con questo ragazzo in francese siamo diventati amici, mi ha raccontato anche tutta la sua traversata del deserto, scene di una tristezza rispetto a quello che l'umanità si concede ai suoi figli, che fanno rabbrividire. Beh, insomma, morale, nell'appeso io avevo bisogno di un qualche messaggio, volevo che fosse lui a darlo, tant'è che la traduzione è molto bella, una canzone tradizionale loro, che dice, è molto semplice come linguaggio, dice: tutti dicono sei un uomo malvagio, con me non sei mai stato malvagio, quindi io non posso dire che tu sia malvagio. Okay. Infine, per me non sei più un uomo malvagio, cioè la libertà da pregiudizio. E siccome era molto elementare come linguaggio, mi piaceva un sacco, gli ho chiesto se mi regalava la sua voce all'inizio. E quindi la introduzione l'ha fatta lui, sì, praticamente. E musicalmente com'è questo? Abbastanza vivace, questo è un omaggio, scanzonato. È un omaggio a Bruce Springsteen. Esattamente, che un po' rockettaro. Che The Wild, The Innocent and The Eastern Shuffle. Secondo album del boss. Esatto, precursore secondo me di molte cose di Jamiroquai in quel disco. Ah, esatto. Nella canzone The Street Shuffle c'ha proprio questo lancio molto street, con dei clavinet che suonano sincopati, queste chitarrine, e ho fatto ascoltare il brano ai musicisti perché ho detto: questa intro la voglio così. Cioè, questo è il mondo. L'idea è partita da te allora, praticamente. Beh, considera che negli arrangiamenti mediata dal boss, possiamo dire questo. Sì, beh, allora il boss è il boss. Il boss è il boss. Diciamo che in caso ha anche un altarino tutto suo. Esatto, boss. Della adesso musica. Che uscì col nuovo disco, uscirà per il nuovo disco fra poco, ma il boss è il boss. Lui è lui. Esatto. E devo dire che mi piaceva quel mondo perché mi dava l'idea, considera che io volevo disegnare uno dei riti cui specialmente le giovani generazioni tendono ad aderire, che questo rito dell'aperitivo, sì, esatto, dell'ospizio che fa molto, si chiama figo, Padova, esatto, cioè, a Bologna c'è spesso il tavernello, con tutto il rispetto per il tavernello, sì, ma spesso è un tavernello in un calice con un gambo lungo mezzo metro, l'importante è farsi vedere col bicchiere, certo. per un pochino per stigmatizzare questa cosa in un gesto che invece è un altro motivo di schiavitù, che è quello della, di questo bisogno folle di appartenere a un qualcosa. Mm-hmm. Perché questo nichilismo, specialmente giovanile, che sta attanagliando la nostra epoca, è dovuto anche al fatto che se non compari, se non sembri qualcosa, la sensazione è quella di non esistere. E quindi tendiamo, specialmente i giovani, tendono ad aderire a dei modelli solo per essere nel gruppo. Firmati soprattutto. Assolutamente, firmati, di cui bisogna liberarsi. Certo, sono d'accordo. Quindi stigmatizzare con molta ironia questo appeso che cerca di piacere un po' a tutti, mi sembrava doveroso per fare il quadro dell'epoca. Certo, stiamo sempre ascoltando questo nuovo album, L'ombra, L'ora dell'ombra rossa, da parte di Germano Bonaveri. Conversando piacevolmente con Germano, perché Germano ci sta spiegando momento dopo momento la genesi del disco praticamente, e anche musicalmente ci sta spiegando il perché ha fatto queste piccole variazioni sui temi a lui cari, sì, ma in modo diverso in questo disco, decisamente. Hai cercato di allargare l'orizzonte, come si dice. Sì, ho cercato di fare quello che secondo me rende affidabile qualsiasi fenomeno naturale, qualsiasi persona, ed è un paradosso, ma è l'inaffidabilità. Cioè, un disco... A parte che penso onestamente che io facevo l'attrezzista da giovane, facevo macchine. Certo. E spesso nelle aziende ti chiedevano di fare anche la copia della macchina, perché se si rompe, quella la facevano fare un altro. Io due cose uguali non le ho mai volute fare, due cose simili sì, ma uguali mai. E penso che anche un artista, se fa due volte lo stesso quadro, è una cosa morta. Quindi quando in un disco, se dovessi mai accorgermi in un disco di fare la cover di Bonaveri, probabilmente mi darò d'altro, mi darò... Poi magari qualcuno lo ascolta e dice lo stai già facendo, queste sono il gusto e soggettivo, ma quando avrò quella percezione farò sicuramente altro, perché ripetersi anche in una formula che magari ha vinto lo trovo il primo segno di un decadimento. Ma non ripetersi è una cosa molto difficile, però cosa dici? Secondo me se uno vive, e soprattutto se vive in piena onestà, può dire anche la stessa cosa con una tale freschezza, se è fedele a se stesso comunque è cambiato rispetto anche al giorno prima. E a proposito, ritornando ai produttori, ci sono i produttori che ti fanno spesso ripetere le stesse cose, perché punto di domanda? Il disco non ha ancora una distribuzione. Meglio così o no? Ma ti dico la verità, abbiamo proposte. Io, chi lavora con me, compreso Patrizia, mi prendono un po' per matto, perché io ho detto rifiutiamo finché non c'è una forma etica. Per etica io cosa intendo? Come dicevo prima, purtroppo chi gestisce i grandi canali ha una bassissima stima delle persone e le chiama gente. Siccome io considero il pubblico, intanto sono quelli che un domani potranno anche permettermi magari di sopravvivere, certo, facendo questo mestiere, quindi già quello è un motivo di grande stima e rispetto. E soprattutto sono persone, e soprattutto sono in questo momento l'ancora di salvezza anche mia, perché o cominciamo veramente a prendere parte o non è più possibile dire sono affari loro, in quella china ci sono anch'io, quindi devo contare molto su tutti i miei prossimi che ho intorno, specialmente se sono di buona volontà. Questa cosa impone che anche chi commercializza il mio prodotto, propone i miei concerti, deve avere un'etica. L'etica è rispettare me come figura artistica, ma rispettare anche il mio prossimo come possibile ascoltatore. Come pubblico praticamente, sì. Esattamente. Quindi in determinati momenti, in determinati, sì, spero modi di fare. Spero di riuscire a trovare questa distribuzione, perché i dischi vanno venduti per sopravvivere. Io in questo momento... Questo è l'autoprodotto praticamente? Sì, il disco, guarda, è la formula più economica e più normale possibile, vanno sul sito mio, bonaveri.it, mi mandano una mail, io li contatto e trovo il modo più comodo per limitare i costi anche a loro per fargli avere il CD. Perché è l'unica formula in questo momento che ho deciso di... è più faticosa, non passi nei grandi media, c'è un ostracismo, anche perché queste politiche di abbattimento culturale colpiscono tutti quelli che usano più di 220 parole, e quindi basta che accendiamo la televisione. Cioè... Anche Sanremo, 2 minuti 50, 3 minuti, 3 sì, minuti 40. Poi c'è un florilegio di volgarità di che dovrebbe cominciare a indignarsi. Noi abbiamo un grande potere, perché quello strumento che si chiama telecomando, noi con quello possiamo spegnere il mondo. Certo. Perché non dobbiamo renderci conto che ogni volta che accendiamo la televisione, ogni volta stiamo accendendo il Truman Show. Oh, bello questo. Lì dobbiamo liberarci, dobbiamo spegnere quel canale. Poi c'è lo share, come dicono. Esatto. Lo share. La vita è fuori, la vita è nelle piazze, la vita è trovarsi in piazza. A Bologna è sparito quella bella usanza che c'era, io mi ricordo i vecchi in Piazza Maggiore la domenica mattina. Non c'è più. Non ci sono più. No, no. Questo è agghiacciante. Dobbiamo riprenderci quelle cose. Ma in lì. Tutte le città italiane, io parlo di Italia, non so all'estero. Ma i vecchi sono la memoria. Lo so.

Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Te la ricordi a te la freccia nera? Sì. Se la ricorda, eh sì, la finale di questo pezzo, l'imperatore, era un cameo, possiamo dirlo così. Sì, anche un omaggio, anche un perché omaggio. Volevo disegnare quel mondo epico un po' goffo nelle mie intenzioni. Diceva Battista che la musica è di Ortolani, grande, grande musicista di colonne sonore. Sì, ma poi lo sceneggiato vedeva Foà, vedeva sì, i personaggi. Poi la giovanissima Goggi c'era. Esatto, esatto. Wow, meraviglioso. E volevo dipingere quel mondo un po' goffo, perché io lo vedo come mondo molto goffo, dei nostri eserciti quando portano fuori la democrazia. Sono pretesti, sono movimenti che non sono dettati da nessuno di quei sentimenti che noi riceviamo dalla televisione, sono dettati da manovre economiche, anche perché dominio comune che non ci sono state armi di distruzione di massa in Iraq, in realtà l'Iraq vendeva petrolio in euro. C'è sempre questo dissidio euro-dollaro dietro le grandi manovre di democrazia. E quindi volevo dipingere quegli eserciti lì che si muovono in pompa magna, passano sopra la voce dei cantanti, per dire che passano sopra qualsiasi forma di carità e di umanità, però hanno questa grande capacità comunicativa per cui sono loro i veri paladini. È un'altra di quelle cose contro cui bisognerebbe cominciare a porsi con forza, con vigore, a chiedere un vero rispetto per l'esistenza umana, non solo vuote parole. Beh, e la musica come l'hai, stavolta come hai voluto avvicinare la musica al testo? Beh, sai, questo tra l'altro è il primo arrangiamento povero del disco. Negli sì, ascolti. È abbastanza scheletrico. Possiamo sì, perlomeno fin quando questo serpente, perché all'inizio descrivo la figura di un serpente partendo da un proverbio popolare, quando cito la saggezza popolare penso che il proverbio che dice chi striscia non inciampa. E ho immaginato questo serpente in un deserto. Il deserto per antonomasia è vuoto, e questo vuoto aveva bisogno di venire fuori da un arrangiamento molto, molto scarno, glabro, che poi si evolve man mano che questa armata prende corpo e coraggio, anche perché dobbiamo tenere presente che questi non sono eroi. Questi sono eroi quando sono una massa che si muove a comando. E ho sempre in mente un'immagine di un film che non ricordo il titolo, un'immagine di un film che vedi da bambini, in bianco e nero, dove l'ascesa al potere del grande dittatore del secolo scorso avveniva con il rumore dei tacchi del suo stivale su per i gradini del potere, ma coperto dagli applausi, perché quando la massa applaude e gioisce che vengono commesse le più grandi atrocità, spesso sotto il nome di misure d'emergenza. Ho capito. E noi dobbiamo stare molto attenti alle misure d'emergenza. Non c'entra niente, però mi viene in mente il grande dittatore, quello di Chaplin. Però. Anche sì, c'è un po'. Ho cercato. Chaplin è un maestro, non mi si paragona neppure, ma l'idea era di quell'ironia sì, lì. Sì, quell'ironia era la giocata. E anche altre, non so, sempre Kubrick all'inizio. Bravo. All'inizio della sua carriera ironizzava anche sì, su questo. C'erano delle forme molto ironiche. Esattamente. Sì. Ok, adesso abbiamo sentito questo pezzo da disco e stavolta sentiamo il primo pezzo dal vivo con la tua chitarra. Che per me è un po', lo sai, un po' la mia sì, corrida, però perché io come chitarrista fa parte della costruzione di Rock Wave sì, sì, di certo. Ogni mercoledì. No, ma ben contento di suonare. Io faccio brani del disco precedente, anche perché credo che un pochino rientri in quello che stavamo dicendo. Una canzone che si chiama Torquemada, che parla proprio di come se un tempo il grande inquisitore, questa figura che incuteva terrore e che comunque è stato responsabile di tante vittime, certo, oggettivamente, e faceva questo in nome di un ideale e però esercitava un potere diretto, violento, coercitivo, ma palese. Cioè vedevi veramente cosa succedeva. E non è che oggi non ci siano quelle figure, però esercitano un potere più sottile, che è quello del potere del media, dove i numeri dei morti sono così spaventosi. Una volta Stalin disse: uccidi un uomo, sei un assassino, uccidi 6 milioni di persone, sei un grande statista. Dobbiamo stare attenti a queste cose. Quindi ho scritto questa canzone qualche anno fa immaginando un Torquemada moderno davanti al popolo, e intanto il Torquemada antico davanti al creatore, che diceva: ma questi sono molto più professionisti di me, ci sanno fare molto di più. E adesso vado a suonare veramente. Okay, okay. Farò del mio meglio, abbasso un po' il microfono verso la chitarra e vado a eseguire. Ci vuole molto rigore e una provata moralità per non lasciare la strada dell'unica verità. Mi presento, Vostra Eccellenza, sono Thomas de Torquemada, uomo di fede e di scienza. Chiedo che mi si conceda di restaurare vecchi poteri in questa nostra stagione, che si combattano l'empietà nel tribunale dell'Inquisizione. Quante facce, signor Torquemada, ma quanti astuti travestimenti, complimenti ne ha fatta di strada indenne, tra secoli farne ti canti, e la ritrovo anche adesso ogni sera, imbonire nei telegiornali, ma la sua faccia non è quella vera, o son discepoli immorali, che si spartiscono trasmissioni, per garantirsi quell'impunità. Figlia di secoli d'inquisizione, madre di questa nostra società. La lama dell'assassino di capre è sempre una pecora da sgozzare, così chi cerca la condanna sempre una legge da far rispettare. Ma resta il dubbio, signor Torquemada, che a volte un giudice possa sbagliare, e nessun Dio gli conceda il diritto di giudicare. In questi giorni di medioevo, dove ogni sorte è decisa da lei, anche l'inferno ha paura e adesso prega, prega per noi. Mi presento, Vostra Eccellenza, Torquemada era il nome mio, ora altri rinnegano l'uomo nel nome abusato di Dio. I sicari dell'arroganza si spartiscono il potere con una forma cieca di violenza più sottile del mio torturare, e come Assuero cerco riposo vagolando nell'eternità. Il mio progetto mostruoso si rinnova in ogni società. Ci vuole molto sudore e una certa dose di follia per parlare all'amico e seminare un'idea. Torquemada può riposare di suoi sudditi e andare via. Basta smettere di subire ogni giorno la stessa bugia. In questi giorni di medioevo serve il coraggio di amare, per rinnegare con tutta l'anima ogni santissimo inquisitore. Ok, bravo Germano, bravissimo. Grazie. Vogliamo citare l'album da cui è tratto Torquemada? Quest'album era magnifico, che è del 2007. Guardo Patrizia perché se fa annuisce con la testa vuol dire che c'ho, perché io ho due grossi limiti, non sì. Mi ricordo i nomi e le date. Ti ricordi i nomi di tutti gli album? Sì, che hai fatto. I nomi degli album? Sì, devo comunque concentrarmi, perché ci sono anche due album che nessuno sa, antichissimi. Beh, possiamo citare, dai. Che sono Il Pagliaccio. Allora, Atto Primo e Il Mio Esordio, 12 copie mai distribuite. 12 copie? Sì. Il Pagliaccio di Strada, c'è qualcuno che ha il pezzo, è quello che credo sia un pezzo da collezione, di bassa lega. Sempre da collezione. Non è che avendo Il Pagliaccio di Strada non ha risolto la sua vita. Poi esce Magnifico nel 2007. Sempre autoprodotto. Anzi, esce Scivola Via, col prima. Gruppo Resto Mansa, che era il mio gruppo, e nel 2004. Quindi è cominciato. Guardo Patrizia che dice 2005. Sì. Tra qui il 2004 e il 2005. Esatto, diciamo fine 2004. Inizio 2005. Esatto. E 2007 Magnifico, poi Città Invisibili nel 2010. Sì. Ok, 2011, questo qua, no? 11 novembre, esattamente. L'Ora dell'Ombra Rossa. Esattamente, quindi praticamente tre album, quattro album possiamo dire questo. Sì, ai posteri e pubblicamente quattro discos. Di cui molti introvabili non si trovano più praticamente. Sai, io sono stato, lo dico con tutta onestà, perché ero molto sfortunato con le distribuzioni. Ho iniziato con Warner, che è stato, fra l'altro è stato un ottimo rapporto, ma ho dovuto io, mio malgrado, troncare le collaborazioni, perché stava cambiando il mondo della musica e la major veramente poteva in quel momento lavorare solo sui grossi big. Io ero tutt'altro che un grosso big, e con un ottimo rapporto anche con chi mi seguiva dentro in Warner ci siamo detti guardate pazienza. Io non ho l'età per cui mi serve solo una copertina su un giornale, anzi è l'ultima cosa di cui mi preoccupo, e loro non avevano bisogno di me. Poi ho lavorato per scelta, anche per valutazione, con etichette minori, che però anche loro si scontravano con le problematiche del quotidiano vivere. Sì. Quindi avevamo bisogno sempre, paradossalmente hanno più bisogno di cose commerciali, le minori. Tu hai detto una cosa giusta, qualcun altro l'ha ripetuto qui in radio, tempo fa, qualche altra band. Le indie, cosiddette indie, etichette indipendenti, sono diventate peggio delle major. In alcuni sono casi. Molto peggio. Lo dico senza voler avere particolarmente in odio le indie. No, chiaramente no, però sono capitare. Diventate peggio perché, vedi, io penso questo della musica in genere e specialmente della musica d'autore, che intanto si è assolutamente distrutto il rapporto che c'era fra il mercante d'arte e l'artista. Ho capito. Ne parlava Lemire Zolla nel 1900, nel secolo. Sì, fece un libro meraviglioso, Verità Segrete Esposte in Evidenza, dove analizzava il rapporto fra mercante d'arte e l'artista. Il tasso di ignoranza, ma nel senso buono, nel senso diciamo della radice della parola, il tasso di impreparazione nella valutazione dei lavori fa sì che spesso il critico può o uniformarsi al pensiero comune, questo lo mette al sicuro dall'essere lui soggetto all'esposizione mediatica, oppure è sicuramente sempre molto facile sparare a zero su quelli che non sono così influenti, quindi spesso gli emergenti, al punto che io sinceramente dico, con questo non sto qualificando il mio di lavoro, io faccio un mestiere che si espone a giudizi altrui, un mestiere in cui ha bisogno di un sano egocentrismo che ti spinge, perché altrimenti canti in vasca. Quindi. Però dico che c'è un grande distacco fra il critico e la gente, così come fra il politico e la gente. Cioè, tutti sono indignati di una cosa, tutti gridano che il re è nudo pensando a un particolare artista, poi scopri che comunque i giornali imperterriti continuano a dirti che quello è il canone, quello è il modo. E soprattutto si lavora sui cloni. Ecco, in questo, se una volta le etichette indipendenti, forse perché riuscivano a sopravvivere, avevano ancora una loro connotazione, se uno va a vedere veramente cosa succede nel mercato musicale, scopre che sono le etichette indipendenti che clonano se stesse, clonano gli artisti dell'etichetta concorrente e generano un coacervo di artisti, lo dico con fatica la parola, che in realtà sono fenomeni estemporanei di costume. E io considero che il critico e l'etichetta, non l'artista mai, ma il critico e l'etichetta sono responsabili davanti alla storia di questa mostruosità. Ho capito, allora che soluzione puoi dare, te Germano? No, la soluzione non ce l'ha nessuno, io penso solo che le persone devono ricominciare ad avere una grande autostima. Noi ci stanno addestrando a due cose, una bassa autostima e una grande paura, perché la paura di perdere quel poco che hai ti impedisce di reagire ai soprusi, quando in realtà stiamo perdendo tutto, quindi è il momento di cominciare ad avere coraggio e di ricominciare a esplorare in maniera autonoma i gangli dell'arte in genere, quindi andare a vedere la mostra fotografica del vicino, perché può avere un mondo da rivelarti, andare a vedere anche il cantautore non noto che non passa nei canali mediatici di grande livello, perché spesso ha con sé musicisti di grande talento e si possono scoprire dei mondi. Certamente. Sono le 22.58, mi permetto di salutare il nostro direttore artistico, Alberto Prisco, che ti ha voluto qua stasera, lo ringraziamo, e salutiamo anche la Nicoletta che segue sempre il nostro programma. Ciao Nicoletta. Ok, allora adesso sentiamo un altro pezzo che poi ne parliamo, io l'ho scelto come pezzo da trainare per un mese consecutivo, mi pare che sia Il Carro, che è la traccia numero... Non lo so neanch'io, il discorso di date e numeri, è la traccia numero 5. La traccia numero 5, Il Carro, è molto bella, ne parliamo dopo perché anche musicalmente mi affascina. Certamente. È l'ora dell'ombra lunga, è l'ora dell'ombra nera. È tempo che tutto si compia, non è tempo di preghiera. Accenderemo tutti i fuochi per scongiurare l'oscurità. Ci batteremo fino alla morte, ma contro cosa nessuno lo sa. È l'ora dell'ombra lunga, è l'ora dell'ombra nera. I soldati sono già pronti per immolarsi una volta ancora. Hanno già eretto un monumento al primo martire che cadrà. Combatteranno sportivamente, ma contro cosa nessuno lo sa. L'ombra lunga è l'ora dell'ombra nera. L'ora dell'ombra lunga è l'ora dell'ombra nera. L'ora dell'ombra lunga. l'ombra lunga è l'ora dell'ombra nera. Hanno iniettato tutti i vaccini tranne quello per la paura. Come le cimici nel verde camice, i luminari della sanità fanno i milioni vendendo farmaci e contro cosa nessuno lo sa. È l'ora dell'ombra lunga, è l'ora dell'ombra nera. I signori della finanza sembrano parche nella bufera. Pare che l'unico paradiso disponibile nell'aldilà venga gestito da qualcun altro e se sia fiscale nessuno lo sa. È l'ora dell'ombra lunga, è l'ora dell'ombra nera. I politici nei talk show, nei programmi della sera raccomandano il loro nome ai futuri elettori dell'eternità. Pare per prendere il posto di Dio, ma se Dio esiste nessuno lo sa. È l'ora dell'ombra lunga, è l'ora dell'ombra nera. Ci sono due innamorati che fanno l'amore una volta ancora, ma l'amplesso dei miserabili non è in odore di santità. Sarà peccato certamente, ma contro cosa nessuno lo sa. È l'ora dell'ombra lunga, è l'ora dell'ombra rossa. Maddalena aspetta un figlio, Maddalena fa una promessa. Sarà magnifico l'orizzonte quando il destino si compirà, quando la testa del serpente Maddalena calpesterà. Lai la lai la lai la la la lai la la la. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Allora parliamo di questo pezzo che io, a me piace molto perché è molto popolare, molto folk, sì, folk tra la volontà è quella di riportare anche l'immagine di una folla festante. Chiude con le campane a festa. Esatto, sì. Perché considera che il titolo, intanto, di tutto che abbiamo detto è fra l'altro è il carro che dà carro. Poi il titolo al disco, certo. Perché cita l'ora dell'ombra rossa nel finale. Voglio dire tre cose di questa canzone perché gli sono molto affezionato. Intanto una cosa che gli ascoltatori non possono vedere visivamente, ma se vedessero il tarocco del carro vedrebbero che è meravigliosa quella carta, perché questa figura è su un carro e per chi guarda ci sono due cavalli azzurri che trainano sto carro, solo che questo carro ha le ruote trasversali al senso di marcia. È palese che sto carro non si muove, certo. Perché il significato, diciamo arcano, da archeos greco, no? La cosa nascosta, il significato arcano della carta è che non è il movimento di quel carro, non è quello il carro è solidamente piantato sulla terra, perché il carro è il movimento inarrestabile, ineluttabile del mondo, dell'universo, di quello che si muove, che se ne strafrega di ruote e di qualsiasi altra cosa. Quindi è l'ineluttabile tendenza della natura a conservarsi, pur passando attraverso la distruzione. L'idea greca della natura che ha bisogno di molto sangue per generare molta vita. Per significare cosa? Ed è la seconda cosa, cioè che in un momento come questo, dicevamo prima la paura, ho cercato di stigmatizzare alcuni pretesti della paura, che sono le epidemie, che è notizia di 4 giorni fa, è molto interessante, che in Olanda, in un laboratorio olandese, era su alcuni giornali, su pochi, anche perché, ti ripeto, mediamente i giornali e la TV sono il Truman Show della realtà. Però in un laboratorio olandese hanno sintetizzato il virus dell'aviaria e della suina assieme. Un esperimento umano capace di produrre un virus, detto dagli scienziati, capace di dimezzare la popolazione del mondo. Dire che esiste, dire dov'è. Siamo nel pieno delirio. Queste sono manovre di strumentalizzazione della paura. E quindi le paure dei vaccini, le paure di questi fantomatici assassini nascosti ovunque nel pianeta, disposti a fare saltare qualsiasi cosa. Il terrore è un'arma. E io credo che nel momento in cui, perché sarà inesorabile come il movimento del carro, che le persone prenderanno atto di quello che sono le verità oggettive, non più soggettive, avremo finalmente una Maddalena capace di rischiacciare la testa a un serpente che oggi è rappresentato da un mondo fisico che esiste, che è fatto di persone che hanno delle ambizioni e delle seti così irrefrenabili, a cui confronto alcuni appetiti priapistici del nostro paese, sono cose da bambini. Quindi io voglio, e qui è una speranza mia ed è anche un augurio in chiusura della canzone, che sia una Maddalena a dare una buona notizia, piuttosto che un Arcangelo Gabriele in questo momento, perché sono un po' stanco di questi uomini eroi e salvatori. Noi abbiamo molto da appellarci, molto da chiedere, come veramente come supporto, come apporto al genere femminile. Credo che saranno loro a salvare il pianeta. Certamente, questo è il discorso del testo, e musicalmente abbiamo parlato che è un folk, un pezzo folk. Sì, volevo proprio volevo creare quel senso di partecipazione popolare, che se all'inizio è minata invece da quelli che sono i diktat dell'informazione, a un certo punto diventano altro, diventano la festa, quella risata che sommergerà il potere, perché quando ci riprenderemo la nostra vita faremo una grande risata. Ho messo dei momenti invece più quasi di un onirico, evocando un po' il mondo del Nome della Rosa, quel medioevo un po' scuro, fatto anche di monaci, comunque di figure abbastanza relegate, abbastanza misteriose, perché allora anche il monastero isolato, oltre a rappresentare un luogo di rifugio, era anche un luogo di paura, misterioso, dove c'era l'occulto, anche se lì c'era un culto. Cosa significa? Significa che il potere si serve di queste immagini, creano queste tensioni superstiziose, perché comunque spaventano, e quindi queste cose dobbiamo imparare a irriderle, a riconoscere, a sperarle, ma soprattutto a riconoscere che non c'è nessun 2012 in cui nessuna profezia, tutte quelle cose là, dobbiamo smettere di avere paura, e se dovesse anche capitare, viva Dio, è il nostro destino, facciamoci una solenne risata tanto. Ok, benissimo. A proposito di questo, parliamo anche di chi ti segue nel discorso del tuo progetto. Qui la Patrizia, che ha un ruolo fondamentale, c'è il mio comandante, esattamente, quindi. Anzi, facciamo parlare, dai, no? Così si imbarazza, sì. Perché lei è abituata a comparire dietro le quinte, viene a dire solo ciao su. Tanto non c'è neanche il video. Ciao. Ecco, perfetto. Che ruolo ha la Patrizia nel tuo progetto? Patrizia intanto ha... Intanto il nome e cognome, facciamo anche... Esatto, anche Patrizia nome. Muzzi entra nel mio progetto inizialmente come mia fidanzata, nel senso che qualche anno fa... è già un progetto ormai importante. Ormai andiamo per i 4 anni. Un progetto importante. Ha deciso di farsi carico della mia vecchiaia. Poi in realtà Patrizia si occupa di tutto quello che è la comunicazione, di quello che è l'organizzazione, quindi la parte manageriale del progetto. Non a caso abbiamo questo connubio, per cui oltre alle liti classiche fra moglie e marito riusciamo anche a condire delle discussioni tecnico-materiali. C'è da dire però che i pantaloni in casa li porto io fin quando me li fanno trovare, perché di solito li indossa lei. E poi si occupa chiaramente anche di quella parte che però vorremmo prima o poi cedere, perché tutti pensano sempre che noi siamo una struttura di quelle massicce, perché comunque abbiamo una visibilità di un certo tipo, in realtà è tutto fatto in autogestione e abbiamo tutti i nostri limiti. Patrizia sta lavorando anche sulla parte booking, quindi costruzione dei concerti, ma stiamo cercando una struttura che lo faccia con una credibilità, perché Patrizia si è improvvisata in 3 anni, ha fatto dei miracoli. Quella parte di comunicazione per un artista ha bisogno anche di un supporto che si affianchi a lei, o lei si affianchi a loro. E questa è una cosa che in cui stiamo veramente cercando, anche lì con una scelta etica, perché proposte ce ne sono, però so che fa ridere, sembra romanticismo, ma deve essere un qualcosa che prima di sposare il progetto artistico deve sposare un progetto un po' più ampio, che è umanistico, perché davvero siamo in emergenza, bisogna cominciare a muoversi seriamente. Benissimo, adesso facciamo sentire un altro pezzo e poi facciamo il solito giochetto, un gioco che tu ti ricordi, quel giochetto dei dischi da portare su un'isola deserta. Può partecipare anche la Patrizia, visto che... Certamente, solo che adesso lei inizia a pensare in panico a tutto quello che... Ok, del prossimo pezzo che abbiamo scelto dall'album, la traccia numero... 7, La giustizia. La giustizia è un pezzo molto bello, che è molto amato da Federico Guglielmi, che ha scritto una bella recensione su questo disco. Lo sentiamo. Domenica del mercato giunse drammatica la notizia che un comando mascherato aveva rapito mamma giustizia. La folla attonita rimase immobile mentre la stavano portando via, prigioniera di qualche nobile a far la dama di compagnia. I plutocrati prontamente commissariarono l'informazione. Prova ne fu che la povera gente cadde ben presto in confusione. I più imbecilli addirittura accolsero il fatto con euforia. Una strisciante dittatura toglieva di mezzo la democrazia. Mamma Giustizia era donna di mondo, fece virtù di necessità, col suo magnifico culo rotondo si aprì le porte alla felicità. A 9 mesi da quell'intrigo giunsero i frutti del suo grande affare, li battezzò condanna e castigo, figli illegittimi del rancore, bella signora. Non aver fretta, che verrà il tempo della vendetta. Più per talento che per fortuna fu la prescelta dell'imperatore. Ora per tutti era la regina tra le puttane del suo signore. Adolescente corteggiata dai ruffiani e castigo insofferente allontanarli come cani. Fu in quegli attimi interminabili che decise di agire in fretta e fosse una figlia degli invisibili a dover compiere la vendetta. Una domenica lei propizia prese la strada per il mercato. La sera stessa mamma Giustizia recava in grembo il suo peccato. Alla corte del gran sultano nessuno seppe la verità. Solo alla nascita parve un po' strano che lei volesse chiamarla equità. Bella signora, non indugiare, è giunto il tempo di ritornare. Tutto accadde velocemente, si gridò il colpo di stato. Alla presenza di tutta la gente il tiranno fu processato. La sentenza fu esemplare, equitale fu testimone. Tocco a condanna quantificare, quindi a castigo l'esecuzione. Corse rapida la notizia nella piazza del mercato. Era tornata mamma Giustizia e l'imperatore decapitato. Bluradio Veneto. Bluradio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, bellissimo questo pezzo. Giustamente è stato Federico Guglielmi, che è critico del Mucchio, possiamo anche dirlo, certo, l'ha giudicato benissimo e ha perfettamente ragione. È un pezzo molto bello. Lui ha scritto che è molto vicino al migliore De André. Cosa ne pensi, Germano, di questo? Come ti dicevo prima, viva Dio, sono complimenti. Devo dire che quando uno scrive una roba così, diciamo che vuol dire che l'ha sentito, vuol dire che l'ha sentito, sì, l'ha sentito bene, l'ha gustato bene, esatto. Non solo ha letto solo la cartella stampa. Non è il caso di Federico Guglielmi, questo è chiaro. No, guarda, poi oggettivamente meglio il miglior De André che il peggior Apicella, quindi, cioè, ma Apicella è un cantante, secondo non ci pronunciamo. Diciamo che non entro nel merito. Esatto. Diciamo che è un ottimo promoter, sicuramente. Ecco, va bene, possiamo dire così. No, sicuramente sono quelle cose che ti lasciano, cioè, l'autostima comincia a crescere molto più dello spread, diciamo. E meglio che sia questo, sì, lasciamo perdere lo spread. No, ma anche perché, guarda, ci sarebbe tanto e troppo da dire. E credo poi che, guarda, le persone per le strade sanno benissimo di cosa si sta parlando. Chiaramente, sì. Allora, citiamo i musicisti, che sono tanti, sì, hai il libretto davanti, che è molto bello. Chi l'ha fatto questo libretto? È tutta roba che faccio io. Ah, è fatto tutto? È tutto auto, anche perché... E all'interno, essendo un lungo racconto, certo, carico di simbologie, il Simballein che si presenta sempre, greco, e essendo denso di simbologie, trasmetterle al grafico sarebbe stato impossibile, quindi è legato a questa simbologia del tarocco, tutto quello che anche dal punto di vista esoterico qualcuno attribuisce al tarocco. Io l'ho comunque usato strumentale per i miei fini di narrativa e quindi devo farlo io, quindi bene o male che fosse venuto ero costretto. E chiaramente, come dicevi giustamente tu, il libretto, perché siccome sono tanti i ragazzi, esatto, che hanno collaborato, è giusto non omettere nessuno. Quindi il primo che ricordo, perché è stato anche il mio chitarrista storico, è anche quello che mi ha fatto da interprete come arrangiatore, perché io ho arrangiato il disco, ma sai, trasmettere una sensazione quando non sei un musicista di professione, quando non hai la conoscenza profonda del pentagramma, hai bisogno di un interprete, e questo è stato Antonello D'Urso, che ha anche curato tutte le registrazioni ed è mostruosamente bravo. Che è un perno essenziale dell'album, Antonello. Sì, ma Antonello è brutto dire il fido scudiero, perché sembra il servitore, in realtà è quella persona di cui hai bisogno quando devi dare corpo a un progetto, per quanto mi riguarda musicalmente, perché mi conosce da anni e riesce spesso a capire cosa intendo io quando dico voglio la stanza più gialla. Lui sa dire a un musicista, magari, allora forse lui intende mettici una settima. Ecco, vedi. E questo serve. Quindi Antonello alle chitarre, tutte le chitarre, i mandolini, e anche a parte della programmazione. C'è un certo Luca De Riso, che è il mio bassista storico, direi che è il più vecchio musicista, nel senso che è quello con cui lavoro da più anni, è 11 anni che mi sopporta. Un rapporto perfetto, allora, comunque. Sì, siamo quasi marito e marito. Ecco, perfetto, va bene. Poi c'è Nicola Morali, che ha suonato il pianoforte, e Gabriele Palazzi Rossi, valente batterista, anche l'electronic drum ha suonato lui, Fabrizio Luca, percussionista, ha suonato l'arpa sia la classica che la celtica, Alice Belardini Pini, che è una valente musicista che vive a Bologna, Valeria Sturba, violinista, e ha suonato il theremin, perché in due canzoni ho... Theremin è uno strumento meraviglioso che mi ricordo qualche mese fa una band l'ha portato, purtroppo lo stavano provando ma per un motivo tecnico non ha funzionato, però è un suono bellissimo. Sì, ha parlato di una difficoltà, perché molto tu vedi suonare, sì, il theremin, ti viene da provare. È molto difficile, sì. È agghiacciante, cioè c'è uno studio dietro che... Poi ha suonato il synth, il clavinet, Marcello Casadei, Pietro Malaguti il flauto, Antonio, poi ho avuto un gruppo di coristi che sono Antonio Renna, Fabiana Tenza, Silvia Manigrasso, Simona Mazzini, che hanno prestato le loro voci. Devo dire, mi ci sono messo anch'io a fare i cori, perché avevamo solo Antonio Renna come maschietto, quindi bisogna rinforzare un po' la parte maschile. Poi ho delle iper basse, quindi ho sfruttato le mie basse. Poi Michel Mande, che è quel ragazzo di cui dicevamo, sì, prima del Mali. E poi c'è un gruppo che sono lo Studio Staff, che è un gruppo, un grandissimo gruppo rapper di Imola, che fra l'altro magari quando hanno finito il disco nuovo ti proporrò. Bene. Perché meritano, soprattutto perché sono di quegli artisti sinceri e veri, si fanno un cuore molto grande per farsi la loro gavetta, che hanno preso un mio testo, gli ho proposto, siccome volevano collaborare e a un certo punto del disco devo cambiare il mondo. La buona fortuna, mi pare. La ruota della fortuna, gli ho proposto un testo, loro hanno curato loro la parte compositiva musicale e chiaramente l'esecuzione, che sono lo Studio Staff, sono Chloe Maudì, Angelo Sel Greco e DJ Mastafuck, che sono tutti quei nomi dello slang rapper, che fra l'altro a me non appartiene, all'inizio ero anche un po' preoccupato, devo dire che hanno saputo accogliermi all'interno anche della canzone con grande maestria. Questo è il team con cui abbiamo fatto nascere questo progetto. Bene, un team corposo. E Bonaveri, che ha suonato po' l'armonica a bocca. Però ha cantato Bonaveri. Sì, ha cantato. Mi pare essenziale. E ha recitato qualcosina in cinque. Così, a passare. Ok, adesso sentiamo un altro pezzo, e poi facciamo quel giochetto sui dischi da portare su un'isola deserta. L'altro pezzo, in scaletta, cos'è? La traccia numero... Abbiamo programmato Le Mat. Ah, bellissimo, che è bellissimo anche musicalmente parlando, a me piace particolarmente. È l'unico assolo vero del disco, in quella canzone c'è. Perfetto. Abbiamo tutti una certa impazienza di avere un posto nell'alta società, ed è soltanto per buona creanza che aspettiamo in silenzio un'opportunità e palleggiamo i nostri desideri col pudore della superstizione. Magari fallendo come ragionieri ci rifugeremo in qualche religione. E se partissi per l'ultimo viaggio, non so davvero cosa mi porterei. Occorre avere un bel po' di coraggio per abbandonare qualcosa di noi. E può bastare un sussurro di vento a spostare le traiettorie del volo. Ed improvviso, finito l'incanto, non sei più il signore del tuo pezzo di cielo. Pezzo di cielo. Ma se pensiamo all'incongruenza di certe nostre, le tue vacanze al mare, quando partire con intelligenza sarebbe soltanto restare. Scoprire subito l'emergenza di questa voglia di scomparire tra uno strillo di un'autoambulanza e un nonno che deve pisciare. Scire, potere, audere, tacere, tre nell'uno, segreta gerarchia. Ogni eccesso una morte nel fluire dell'enantiodromia. Abbiamo fatto le nostre esperienze, chiusi dentro i recinti di formalità e condannati dalle circostanze. Rimandare a domani la felicità, abituato in una dimensione dove tutto è ragione di quello che hai, e migliorare questa situazione dipende da quello che abbandonerai. E se partissi per l'ultimo viaggio, forse alla fine mi accorgerei di aver guardato lo stesso miraggio che lega la sorte di ognuno di noi. Quel desiderio cieco di onnipotenza, quell'euforia procurata dal volo, e all'improvviso ne prendi coscienza e non sei più il signore del tuo pezzo di cielo. Pezzo di cielo. Ma se pensiamo all'inconsistenza di certe nostre strane convinzioni, quel mescolarsi di scienza, di fede, potere e superstizione. Scopriamo il senso dell'esistenza, se ne capiscono le ragioni e dissoluzioni. Non c'è più emergenza, perché non ci sono problemi. Scire, potere, audere, tacere, i tre nell'uno, segreta gerarchia. Ad ogni eccesso una morte nel fluire dell'enantiodromia. Ma quando il dubbio diventa sospetto e lentamente riprendi a capire, e quando intorno ti dicono matto per quel bisogno di classificare, allora scegli per l'esperienza, spicca un salto in quel pezzo di cielo, troverai il senso dell'esistenza nell'euforia di quel volo. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Se abbiamo ascoltato la ruota della fortuna, la fortuna che comincia a girare o non comincia a girare, Germano, in questo caso? Ma sai, qui è proprio un riferimento a quel mondo greco che ti dicevo. Il greco sapeva bene che i momenti di grande fortuna erano presagio di grandi disavventure. Sì, questo è vero. Poi tutta l'Odissea. Odisseo, certo, è un personaggio costruito su quest'idea, no? E i momenti di grande sfortuna erano comunque, perché il greco aveva questa idea di ciclicità, non aveva l'escatologia di un percorso rettilineo. Si chiama enantiodromia quell'idea del greco per cui ogni cosa in natura arriva al suo eccesso per generare il suo opposto. E quindi era, siccome ti ripeto, un disco di rivoluzione, di evoluzione, quando succede alla settima, all'ottava, nell'ottava traccia del disco, che questo modello sociale, questo essere umano, ha incontrato nel suo cammino gli ostacoli che l'hanno fatto maturare ed evolvere. Nel momento dell'evoluzione è chiaro che tutto cambia, e quindi nel disco, proprio per quello che dicevamo prima, di non legare il disco a un mondo musicale, avevo questo bisogno di voltare pagina. E pensa, proprio in quei giorni, il disco, ti ripeto, ha avuto un'evoluzione questa eterna, di 20 anni, mm-hmm, quasi, perché le prime cose hanno 23 anni. Qualche mese fa, 7-8 mesi fa, mi scrive questo Claude Maudit, questo ragazzo questa ragazza mi dice: guarda, come abbiamo visto il tuo lavoro, ci piace un sacco, magari chissà un giorno collaborare. Gli ho scritto la sera stessa, gli ho detto vediamoci, okay. E sono partito col testo in tasca, gli ho detto: guarda, qui c'è un testo, se avete voglia di partecipare al mio disco vi fate la musica e venite e cantate. E loro l'hanno fatto. Ed è nato questo, la ruota della fortuna. E fra l'altro sono molto bravi, davvero anche gli ascoltatori consiglio di andare a cercarsi sul web lo studio staff. È un mondo moderno, quello, certo. Di queste, però è un mondo, loro sono veramente di quel rap vero, quello che, perché il rap nasce come denuncia della sofferenza, sì. Un po' il blues del nostro tempo, io almeno da profano del rap lo vedo molto così, e loro hanno queste caratteristiche, sono molto blues nel loro essere rapper. A proposito di blues, adesso scegliamo i famosi dischi da portare su un'isola deserta, sono le 23:26, tutto in diretta, stiamo parlando piacevolmente con Germano Bonaveri del suo L'ora dell'ombra rossa, vai. Allora, certamente, Storia di un impiegato di Fabrizio De André. Grande, abbiamo citato prima De André. Perché per grande. Me è un po' il Bignami della musica d'autore italiana, quindi ogni tanto è sano rileggerlo. Certamente, Live at Carnegie Hall, credo del 77, ma lì forse posso sbagliarmi l'anno, dei Renaissance. Un doppio album in vinile, era un doppio album. Keith Raff era un grande musicista, Un capolavoro. E guarda, in questo momento non ti so dire il titolo, perché è un live. Perché sai che ti avevo detto un altro titolo, sì, ma proprio mentre dicevo questo mi è nato il flash di quello che in questo momento salverei, perché anche perché lo sto consumando, anche se non mi ricordo il titolo perché lo sto ascoltando da YouTube. Sono i Traffic in un On live the Road, mi pare, in un live in cui fanno anche John Barry, ne ha fatto più di uno, sì. On the Road, forse, non so se sia On the Road Again, non mi ricordo. In ogni caso John Barry dal vivo è un piccolo capolavoro, però originale è un doppiamente un capolavoro. Sì, poi guarda, Winwood secondo me è un genio, è un tale gigante, eclettico, sa suonare tutto, sa trasmettere, e anche guardandolo nei video è di una verità talmente quasi oscena, che lo tocchi con mano quello che ti sta raccontando, che per questo mio momento esistenziale, come capita che ogni tanto me lo vado ad ascoltare con molta attenzione, sicuramente qualcosa di Traffic. John Barley, che è un disco che io ho sempre amato, perché aveva il folk nelle vene, anche se non è totalmente folk. Però la traccia, la title track è un pezzo folk fra meraviglioso. Tra l'altro il testo è di una violenza inaudita. È vero, sì. Però ha una tale carica poetica, perché non per quanto la sensazione che pare di persone, alla fine queste persone sono il grano, sono il sangue della terra, esatto. Quindi assume delle connotati di una poeticità che è quella, una di quelle canzoni che bisogna andarsi a leggere il testo, perché anche perché il linguaggio è così semplice che ti sormonta, è gigantesco. A proposito di violenza, un altro disco molto bello, qui siamo fuori, lo scelgo io, è Murder Ballads di Nick Cave, non so se lo conosci. Le ballate nere, le ballate oscure con PJ Harvey che faceva il controcanto in alcuni pezzi. C'era lei, qualche pezzo c'era lei. È un grande disco di Nick Cave. Nick Cave ha fatto tante cose diverse. Sì, infatti io sono uno di quegli ascoltatori distratti di Nick Cave. Se mi dici il disco vado assolutamente. Ma Murder Ballads è un disco, anche se si trova in linea economica, a chi interessa. È molto interessante perché lui ha fatto cose molto dure, durissime, però riesce anche a calibrare, a dare quel tocco dark molto particolare, molto suo. Okay, oggi compie gli anni, aiutami, perché compie gli anni quello della Florida, ne parlavamo prima, mi viene in mente perché io sono così, ha visto anche prima, io con i nomi, c'è un grande compleanno oggi, dopo Jones. Ok, compie gli anni Jones. Benissimo. Allora facciamo una cosa, adesso scegliamo la traccia numero 8, che è il Matto, mi pare, sì. No, la traccia numero 9 che è il Matto, che è un pezzo molto bello che piace molto alla Patrizia, anche come arrangiamento, adesso lo sentiamo, che come hai detto giustamente è l'assolo del disco, ok? Sì. Anni abitavo in mezzo al mare, come un cucchiaio conficcato in un budino, sopra la testa un alto cielo azzurro, sotto ai miei piedi un altro cielo uguale. Invece un giorno ipotizzai un nuovo mattino, così decisi ingenuamente di salpare verso altra vita ben oltre la deriva che l'esistenza mia sembrava secondare. Poi all'improvviso tempesta mi sorprese, oceano in piedi mi bloccava dal terrore. Di un solo schianto la barca mia si arrese e naufragai sulle spiagge dell'errore. Chiamatemi pure matto, che il seme della follia non è un difetto, non è una malattia. Io sono l'unico che un numero non ha, non ha indirizzo, la vera libertà. Perciò si dica matto che è meglio emarginare chi vive come un gatto scegliendo di restare ai margini del mondo, dove non c'è risposta per chi ha toccato il fondo e ancora non gli basta. Per le cose che ho imparato, l'ininfluente leggerezza del passato è come un cane che mi spinge dalla schiena. Azione pura in questo eterno presente, non ho più un luogo, lo spazio sono io. Sono il fenomeno sfrontato e impertinente, la metafora perfetta e indecifrabile di Dio. Chiamatemi pure matto, che il seme della follia non è un difetto, non è una malattia. Sono l'arcano che un numero non ha, è il prezzo onesto della mia libertà. Perciò si dica pazzo senza troppo indagare, schivando l'imbarazzo di chi non vuol capire. Chi vive come un gatto, oggi come domani, chiamatemi pure matto, siete così lontani. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo sentito il matto. Il matto, perché il matto? Perché che è un uomo, qua una recensione ho letto, l'uomo che ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato. E così, sì, perché io credo che, dicevamo prima, il mistico è quella figura che a un certo momento esce dalla dimensione umana legata a questo concetto di tempo e vive un po' quello che De André chiamava il punto di vista di Dio, no? in Coracanè, che è la contemporaneità della storia avvenuta e quella a venire. Il matto nella carta del tarocco è quella figura esaltata, quella figura in preda all'azione pura. Il matto per antonomasia non agisce sulla base delle cose che ha imparato, agisce sulla base dell'istintività. È quella parte anche animale, a volte irrazionale, perché il matto vive il tempo come la contemporaneità di passato, presente e futuro. Quindi è la pura azione. Il matto non occupa uno spazio fisico, ma rappresenta lo spazio. E anche nella simbologia del tarocco, che conosco a fondo, una materia che ho studiato tanto nella mia gioventù, rappresenta proprio quel momento di rottura con tutti gli schemi. Ed è un po' nel racconto mio ipotetico del mio piccolo romanzo in musica, è un po' il momento in cui, arrivati attraverso l'esperienza a una consapevolezza di una qualche natura, arriviamo di fronte alla scelta ineluttabile di abbandonare il consueto, pagando anche lo scotto di essere considerati anche realmente un po' matto. Ti racconto un brevissimo aneddoto zen, dove a un certo punto il saggio del paese viene a sapere che questa notte, che la notte stessa, l'acqua di tutti i posti sarebbe diventata inquinata e tutti sarebbero impazziti. Il saggio va al paese e dice a tutti: guardate che se bevete l'acqua del pozzo stanotte impazzirete, quindi fatene scorto. Ovviamente nessuno dà retta al saggio e la mattina di domani sono tutti matti. Il saggio va al paese per vedere i risultati, se la gente l'ha ascoltato, se le persone hanno seguito il suo consiglio. Persone che quando sento parlare il matto non lo capiscono più, quando sento parlare il saggio non lo capiscono più e dicono: il saggio è impazzito. E la legge di quel paese era tale per cui chi cadeva nella pazzia veniva decapitato. Quindi si preparano all'esecuzione, il saggio chiede come ultimo desiderio di tornare alla casa, prende l'acqua del pozzo e la beve. In quel momento impazzisce e quindi tutto il paese festeggia l'essere tornato sano del vecchio saggio. La pazzia è un po' questa, è il momento in cui smettiamo di uniformarci, facciamo una scelta precisa, anche se a volte può essere una scelta dolorosa. Certo, e musicamente qual è questa bellezza di musica, che di contorno, questo piano? Sai, io credo che paradossalmente l'atmosfera più profonda che viene trasmessa dalla canzone dipende dal fatto che siamo stati in febbraio. Come ti dicevo, ogni disco ha un ambiente, sì, ogni canzone. Questa canzone come ambiente ha il mare di Torre Pedrera, registrato a febbraio in una giornata di freddo vergognoso, ed eravamo io, Antonello e Gabriele e anche Luca, il bassista, sulla spiaggia di Torre Pedrera, vestiti come dei matti, perché in realtà era un tale freddo che ti mettevi addosso quello che potevi, con dei lunghi microfoni, con delle lunghe aste che portavano un microfono, perché volevo quel mare lì. Quindi sicuramente, veramente qui un po' il viaggio di Odisseo che si avventura verso l'ignoto. E poi devo dire che i ragazzi nel gruppo suonano musicisti di valore straordinario e quindi hanno saputo cogliere l'essenza di quella che era la canzone. Devo dire che in realtà sì, il disco sono arrangiamenti disegnati da me, ma devo dire che l'ultima parola è anche nelle mani, nel tocco, nell'esperienza, nell'emotività di chi la va a interpretare. Quindi credo che, siccome è stato un disco che tutti hanno vissuto con molta intensità, alla fine viene restituita anche a chi ascolta. Certamente. Adesso sentiamo allora un pezzo che tu suoni dal vivo. Con dita ben diverse. Con dita, beh, insomma. Tra l'altro mi scuso, come ti dicevo prima, col pubblico, perché a un certo punto ho detto che è il compleanno di Jones e ho immaginato qualcuno a casa abbassare gli occhiali e chiedersi: Jones, ma chi è questo Jones? In realtà è il compleanno di Tom Waits, esatto. Che io ho associato a Tom Jones, e quindi su Jones sono arenato sulle spiagge dell'errore. Che tra l'altro ha fatto un disco ultimo molto bello, molto, sì, significativo. Qualche critico ha scritto: è il disco più semplice in alcuni momenti di Tom Waits, ed è vero, anche se però Tom Waits di semplice è sempre Tom Waits. Quindi sì, da Blue Valentine prima e dopo, oppure o Rain Dogs o altri capolavori assurdi. Certo. Cosa sentiamo allora? Magnifico, che fra l'altro dedico, perché alla fine questa canzone parla, che dice che è molto bello, è magnifico anche solo gesto di cantare. La voglio dedicare a un mio amico che ha intrapreso la carriera di cantautore, che si chiama Cesare Livrizzi, che sta scoprendo l'ostracismo di cui ci si nutre, specialmente agli inizi dell'attività. Quindi la dedico a Cesare, che incontrerò domenica per un caffè che lui mi offrirà per compensarmi della cosa. Magnifico. Plausibile, come andarsene e ricominciare, come scegliere di restare, come l'ultima sigaretta spenta sul viso del tuo nemico, come la vita vissuta in fretta, come le cose che non ti dico, come le cose che non mi dirai e che in fondo ho capito e lo sai, possibile come scegliere di cogliere un fiore per guardarlo e scoprirne il colore, come te che sorridi leggera, come vendere un portafortuna, come amarsi davvero ogni sera per guardare arrossire la luna, come a volte sai può capitare di ritrovarsi da soli a viaggiare. Fattibile come uscire a comprare qualcosa o saper perdonare un'offesa, come andarsene nudi per strada per scoprire di avere un pudore, come bere soltanto rugiada, come un pazzo che parla per ore, come chi non ti vuole ascoltare e vorresti soltanto spiegare. Inutile come illudersi di ringiovanire, come i farmaci per dimagrire, come assumere droghe leggere cantando il canto dello sciamano, come chi beve per dimenticare da un'agenda portata di mano, come le favole che non mi ricordo, come battute capite in ritardo. Drammatico come una dose di prima mattina per far crescere l'adrenalina, come lo smettere di fumare per un gestore di tabaccheria, come non essere per sembrare, come la noia e la monotonia, come baciarla al momento sbagliato quando alla sera non hai digerito. Magnifico come qualcosa che voglio cantare senza pretesa di comunicare, come una strofa senza una rima o questa musica improvvisata, come le cose che ho detto prima, come una foto nata sfocata, come la lirica leopardiana o come la vita che è proprio puttana. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo? Sì, ci siamo. Ah sì, no, l'abbiamo già fatto. Eh sì, l'abbiamo già fatto. Un momento di disattenzione, è un po' come il mio Jones. Per quello sì. Ha mostrato una bevanda vagamente alcolica. Vagamente alcolica. Benissimo, abbiamo sentito questo pezzo da Magnifico. Non hai sbagliato nulla, era tutto a posto. Ho preso tutti gli accordi. Sì, Patrizia ha confermato, era tutto a posto. No, anche perché io sono noto per, siccome le scrivo ma non me le ricordo, specialmente sì. I testi, quando sei in concerto hai un sacco di cose da controllare. Se mi distraggo un attimo dimentico le parole. E devo dire che in questo sono un po' rapper, perché in tempo reale cambio, stravolgo e spesso indovino il senso, tranne una volta dove per colpa di alcuni fonici a una grossa manifestazione facevo Bocca di Rosa di De André. Praticamente mi hanno acceso le spie con una pressione sonora spaventosa. Sei, io credo, confuso. Fossimo a 160 dB. No, non solo, è una canzone che so a memoria, certo. Avevo il testo, ma io ho iniziato a cantare, ho detto proprio, la chiamavano Bocca di Rosa, e ho continuato per due strofe con la gente giù che diceva questo qua cosa dice, cosa dice, cosa dice. Sono uso queste uscite come Jones di prima. E dal punto di vista del concerto, no, chiaramente i nuovi devi ancora fare, ma i precedenti come ti sistemi sul palco? Io devo dire che sono uno di quelli che nel corso della vita, per questioni esistenziali, ho praticato tutti i tipi di meditazione. Poi ho scoperto che il mio momento di contemporaneità di passato, presente e futuro sul palco, quindi in realtà, fra l'altro Patrizia che qui può dirlo, spesso è preoccupata di quella che può essere la performance, perché io non mi preparo. Ah, perfettamente. Il concerto è un momento di assoluta verità, e guarda, è una delle cose che cerco di dire, io faccio anche produzioni artistiche, alcune delle volte capitano artisti che mi dicono, ma mi dai una mano, mi segui, io se il progetto mi piace volentieri, mi appassiono, e quello che cerco sempre di difendere è questa necessità di salire sul palco a rappresentare se stessi, veramente con la sfrontatezza e perfino la spudoratezza di raccontarsi per come si è. così per quello che è venire anche qui da te, dove il clima è talmente familiare, sereno. Lasciamelo dire, perché è una parola che non amo, ma vale la pena, perché in questo caso ha l'accezione positiva. Colto, perché l'essere colti significa anche, soprattutto, l'aver prima ascoltato, perché significa rinunciare a una parte di ego e dare la possibilità che altri abbiano un punto di vista diverso. E il rispetto che devi verso questa situazione è proprio quello di rappresentare te stesso, con tutte anche le tue, passami una parolaccia, con le tue sfighe, con il tuo avere delle contraddizioni, tipo questo di dire Giorgio in una radio, ti prepari prima cosa dire, in realtà non preparo niente, così sono i live, è il momento della verità. Eh sì, il live deve essere sempre il momento della verità, sì, cosa dici Germano? Assolutamente, e che è un'altra di quelle cose che sono un po' mancanti secondo me in questa epoca, perché spesso anche gli artisti sono presi, scelti, messi in pedana, prodotti rapidamente, ai 6 mesi di tempo dobbiamo tirar fuori il massimo del denaro, e secondo me spesso molti artisti non vengono neanche capiti per quello. Sì, può darsi che sia. Altri passano inosservati per gli stessi motivi. Parlavamo tempo fa con un ragazzo di Roma e lui era innamorato del folk studio e diceva che al folk studio per suonare bisognava avere una caratteristica, suonare pezzi propri, assolutamente propri. Gran bella cosa. Le cover erano bandite, perché è giusto che sia così. Deve essere così. C'è uno spazio, io credo che al mondo debba avere spazio tutto, e siccome troppe cose non ha spazio, questo è motivo per lottare, ma non significa mai sopprimere altro. Cioè, ci sono talmente tanti colori in un arcobaleno che fermarsi a guardare nessuno. Giusto il nero per me che sfina, quindi io sono leggermente sovrappeso, ma dopo diventano fatti soggettivi. No, quello è interessante dire, cioè bisogna fare i pezzi propri, e una volta c'erano la hit, c'erano i famosi DJ, i famosi scopritori di talenti, sì. Gocci per esempio, che scopriva i talenti, che scopriva i cantautori. Allora parliamo di cantautori, quindi il famoso, sì, Giorgio Locascio, Venditti, De Gregori, eccetera, sì, eccetera. No, adesso è purtroppo, cioè, guarda, il mondo funziona, quello che vediamo in politica, di cui tutti siamo indignati, non è, rappresenta esattamente lo specchio di qualsiasi forma societaria che viviamo quotidianamente. Ed è guarda, l'ostracismo spesso, ti citavo prima Cesare, sì, Livrizzi, comunque un ostracismo verso comunque gli emergenti è dovuto proprio a una cattiva educazione, di cui però siamo anche in parte responsabili. Certamente. Adesso abbiamo circa 12 minuti verso la mezzanotte, abbiamo tempo di far sentire due pezzi finali, mi pare. Ce la fai a fare un refrain alla fine di tutto per chitarra, così per concludere la bellezza della serata? Beh, possiamo fare un omaggio a qualcuno. Ecco, facciamo un omaggio a qualcuno. Adesso sentiamo il pezzo che segue, il matto, esatto, che parla della morte, mi pare. Arcana, sì, 13. Perché nel tarocco la carta 13, perché non ha un nome, l'arcano senza nome, in realtà il tarocco non raffigura la morte, raffigura la trasformazione. Quindi nel mio progetto questa carta sta a simboleggiare i momenti in cui consapevolmente il nostro matto decide che vale la pena trasformarsi, vale la pena evolvere. Quindi è un gesto di grande coraggio, e noterai che in chiusura c'è un momento in latino che è l'esorcismo di San Benedetto, secondo la tradizione, perché la vera evoluzione passa anche attraverso l'abbandono. Del resto i discepoli hanno lasciato tutto, hanno lasciato le reti. Quindi certo, certo. Ci vuole l'ultimo gesto di grande coraggio per un'evoluzione, quello di lasciare cadere, di abbandonare tutto quello che in realtà ci porta lontano dalla nostra vera evoluzione. Quindi 13 è un omaggio a questa scelta, a questa necessità a cui presto saremo innanzi. Sentiamo il pezzo allora, ok. C'è una curva dopo il ponte che nasconde la strada, non si vede l'orizzonte, ma è destino che vada, mi incammino nella nebbia che accoglie il mio respiro, ho una clessidra senza sabbia per misurare il futuro. Se soltanto avessi un nome io ti potrei cercare, ci fosse un modo per raccontarti, ti saprei cantare in implorarti di aspettare, è come chiederti in sposa, come cercare disperatamente in giro, ma non sapere cosa. C'è una curva dopo il ponte che nasconde la strada, non si vede l'orizzonte, ma è importante che vada. Ho lasciato i miei vestiti agli arcangeli di Dio, ho soltanto questo corpo nudo che sono veramente io. Esatto di non ritorno, istante del divenire, è così che ci pensammo mortali, nell'apparenza dell'invecchiare. C'è una curva appena trascorsa che nasconde il cammino, c'è un chiarore all'orizzonte che promette un mattino. E mentre tutto il tempo accade io mi lascio divenire, perché soltanto non essere visto il mistero che chiamiamo morire. Lai la la, lai la la, lai la la, lai la la. Crux sancti patris benedicti, crux sacra sit mi lux, non dracus sit mi dux, vade retro Satana, non suade mi vana, sunt mala quae libas, ipsa venena, vivas. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Ok, siamo al 23:54, Germano, abbiamo concluso l'album, c'è un pezzo, adesso l'Eremita è un pezzo molto importante, anche musicalmente molto interessante, come tutti i pezzi del disco, come giustamente tu hai detto all'inizio di trasmissione, perché volevo cambiare, non voglio fare gli stessi dischi, non voglio essere il clone di me stesso. Guai, guai, assolutamente. E l'Eremita fa parte di un cambiamento. Sì, fra l'altro, guarda, per dirti i mondi delle canzoni, 13, quella che abbiamo ascoltato, ero con Antonello D'Urso, il mio chitarrista che ti diceva bravo a registrare, eravamo a Comacchio dopo una nevicata, io camminavo nella neve a tempo e lui mi registrava seguendomi, cioè, e siamo stati in una zona dove lui poteva calpestare la neve senza far rumore, per dire che registrare i suoni è stata un'impresa. L'Eremita, io volevo creare un po', ti ricordi il vecchio sceneggiato di Ulisse? Della Rai, quel capolavoro, sì, con quell'attore greco di cui non ricordo il nome, capolavoro, ho comprato il cofanetto perché ogni tanto me lo guardo. Quindi l'hai rivisto praticamente. E volevo creare, siccome l'Eremita è il racconto di qualcuno deceduto che parla con i vivi, e quindi volevo dipingere questo mondo che mi piaceva l'evocazione dell'ade di quello sceneggiato, e però non volevo metterlo in un luogo così teto. E siccome dove registravamo con Alice l'arpista era un luogo dove di notte cantavano le cicale, ma a dei livelli di volume spaventosi, e registravamo chiusi in questa saletta con tutte le insonorizzazioni, le barriere alzate al massimo perché davano fastidio. Per il pezzo Alice ha suonato nel prato in preda alle zanzare, perché volevamo che quel suono di cicale invece dominasse, perché era quel colore che schiariva un po' questo al di là, questo oltretomba greco in questo caso. Ecco, per dire che ogni disco, ogni canzone nel disco ha un mondo reale che accompagna, non sono una cosa che senti così forte, però è lì, e lì ci sono quelle cicale che sono una bella colonna sonora. Bene, sentiamo allora l'Eremita e poi concludiamo in bellezza suonando. Improvviserò chiaramente. Esploro cauto il silenzio, sgranando gli occhi nell'oscurità, per osservare il colore del buio, perché l'assenza un colore ce l'ha. Giorni in queste rovine, che un tempo furono la mia città, cerco tra le macerie il mio nome, quello con cui qualcuno mi ricorderà. Non so dire se ci fu un istante in cui decisi di dover partire, e se qualcuno pianse, ma non è importante, e anche se fosse non lo vorrei sapere, perché qui, in questa vacuità insolente, in questo angolo di eternità, non incontri nessuno, nessuno si affaccia da questa finestra sul niente. Qui nessuno ti abbraccia o ti consola, qui l'anima è sola. Qui c'è solo l'assenza, il suo bel colore, qui nessuna parola, nessun rumore, nemmeno un respiro. C'è un arcano di cui non ti dirò, perché solo da qui posso comprenderlo, e come sai, nel luogo in cui mi trovo nessuna parola ha significato. È il ventunesimo, che potrai accogliere quando saprai scorgere la sofferenza dell'altro, quando avrai dato spazio dentro di te al senso della compassione. Solo allora, impalpabile, lo vedrai sbocciare dal ciglio di uno dei tuoi abissi. Indagalo, cercalo, è il punto in cui poggia il compasso dell'universo, il luogo insperato della conoscenza, da cui tutto espande. Il rimpianto e l'intenzione, ogni parola, ogni mio pensiero, non hanno senso né ragione, non ho passato né futuro. Tutta la storia accade in questo istante. Mi trovo al centro dell'evoluzione e tutto appare chiaro, tutto è contingente, e anche se non fosse non è così importante, perché qui, in questa vacuità esaltante, in questo squarcio nell'eternità, non incontri nessuno, nessuno si affaccia da questa finestra sul niente. L'universo ti abbraccia e ti consola, qui l'anima vola. Qui c'è solo l'assenza, il suo bel colore, qui nessuna parola, nessun dolore, qui diventi respiro. Io sto bene, in questo altrove tutto accade simultaneamente, qui le quattro misure dell'universo, altezza, lunghezza, larghezza e profondità, si svelano. E nessun pensiero è possibile. si sta come in cima ad una torre altissima in un giorno di cielo sereno. Puoi vedere tutto attorno, passato, presente e futuro. Basta saper guardare ciò che è. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Germano, abbiamo finito purtroppo. Ahimè, sì. Queste due ore, bella compagnia. Sì, della sì, musica. Assolutamente. Sono stato... Ricordiamo qualcosa velocissimamente di fondamentale. Titolo del disco. Titolo del disco, L'ora dell'ombra rossa. Dove si può trovare? Si può trovare per adesso esclusivamente sul mio sito, bonaveri.it. Invito comunque chi ascolta a farci una visita, anche perché... produzioni artistiche è il mio mestiere questo, quindi e soprattutto possono contattarmi chiaramente per acquistarlo, per confrontarci su degli argomenti. Lo tengo molto vivo, sì. Un veloce appello di 10 secondi: se qualcuno vuole confrontarti con te, vuole sentire la tua voce, vuole sentire assolutamente un concerto, sì, qualcosa. Fra l'altro, se anche perfino dei privati, guarda, stanno cercando di organizzare con amici degli incontri per discutere il disco, per conoscerlo insieme, è sufficiente una mail, poi se c'è modo si organizza qualcosa. Abbiamo appena fatto due cose importanti a Lecce e a Bitonto. Sta diventando una cosa molto bella andare in giro e conoscere, guardare in faccia le persone, conoscerle. Poi verranno i concerti. Patrizia sta lavorando sulla programmazione delle date. Certo. Da metà gennaio saremo in giro. Salutiamo anche Patrizia che è qua e la ringraziamo per quello che ha dato per questo progetto. Chiaramente ringraziamo Michele Tosoni in regia. Domani è festa, è l'Immacolata. Venerdì ci sarà l'intervista telefonica in diretta con Arturo Stalteri, ex Piero Lunaire, gruppo Progress degli, certo. Molto interessante, molto importante. Ha fatto un disco di Natale, con il Natale un po' particolare. Grazie a tutti e concludiamo con cosa? Strimpello, perché la parola giusta è strimpello, un altro pezzo datato che è Il Mago. Bene. Non Il Magro, anche se a volte dal vivo lo chiamo Il Magro con la scusa che è autoreferenziale. Bene, grazie e buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Il mantello è un'ala di falcon nera, sporca di oscurità, abbandonato dove le cose si lasciano dimenticare. Se hai una fede piccola o un amore da consolare, allora spiegami un'altra volta cosa intendi per libertà. Scorga una macchia bianca tra la giacca e l'armatura. So chi è, l'ho vista un tempo volare nel cielo sereno, il falco è istinto, non sceglie mai per comprensione. Lei o chi per lei, che importanza ha un nome? La colomba come un foulard per salutare un treno, deraglierai la vita ma non vedrà in faccia nessuno. Il mago non sa volare, non sa scegliere ma sa recitare. È il folle gioco del prestigiatore che dipinge l'idiozia coi colori dell'amore. Il mago non sceglie le carte ma sa mescolarle tra loro. Il mago non sfida la sorte, ti illude con polvere d'oro. Crocefisso al bicchiere, il dio dell'ipocrita sanguina vino, solo sul palco, nel cono di luce magica del riflettore. Dove bambino pensavi che tutto potesse accadere, restituisci il volo al cielo, un destino al destino. Mentre assale l'angoscia di aver perso qualcuno. Il mago non sa volare, non sa scegliere ma sa recitare. È il folle gioco del prestigiatore che dipinge l'idiozia coi colori dell'amore. Il mago non lascia un ricordo tra cose che puoi ritrovare. Lui sa bene che che basta uno sguardo e la colomba non potrà più volare. Quando apristi il mantello come falco incabrata, la colomba puntò al cielo, disegnò come un sorriso. Come il saggio non sa scegliere tra inferno e paradiso, così il pubblico non scelse tra applauso e risata. Solo un grido esplose chiaro, solo un grido esplose chiaro, solo un grido esplose chiaro, l'utopia è precipitata. Il mago non sa volare, non sa scegliere ma sa recitare, è il folle gioco del prestigiatore che dipinge l'idiozia coi colori dell'amore. Il mago non lascia un ricordo tra cose che puoi ritrovare, lui sa bene che basta uno sguardo e la colomba non potrà più volare.